è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18 e 33 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, messaggi sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Questa sera, come sapete, andiamo in onda perché la zanzara non fa sciopero, ma avremo modo di parlarne più avanti. E intanto non siamo collegati con nessuno. Bene, i titoli dei telegiornali non ci sono perché c'è sciopero. Allora come andiamo in onda questa sera? Con che cosa andiamo in onda? No, quello lo metteremo più avanti. Cosa c'entra? No, fatemi sentire qualcosa. Qualsiasi cosa volete voi, uguale. Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Questa sera voglio fare 3 ore di straordinario! Vivere senza le mie pratiche! Non posso! Aiutiamo questo nostro paese, aiutiamolo! Andiamo a piedi che guadagniamo tempo, su! Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Andiamo a lavorare. Va in onda dunque stasera il Crumiro, come ha detto il direttore del Fatto Antonio Padellaro, e dunque potete parlare con il Crumiro all'800 24 00 24. C'è un altro Crumiro, il direttore di Radio Maria Fanzaga. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Allora, Don Livio Fanzaga, su che cosa? Sulle intercettazioni. Salvaguardare l'efficienza delle indagini o K, salvaguardare anche la libertà di stampa eccetera o K, ma salvaguardare anche il diritto fondamentale alla privacy dei cittadini. Capite bene che forza di ricatto avrebbero in mano quelli che hanno in mano intercettazioni di ogni genere specie, hanno in mano una forza di ricatto tremenda, compresi i giornali, che fanno finta, ma possono ricattare come, quando e chi vogliono. Una teoria bizzarra da parte di Don Livio Fanzaga: per non farsi intercettare bisogna scappare dall'Italia. Un tipo di società, sinceramente, nel quale, non so come dire, l'unica possibilità che si avrebbe è fuggire nel deserto, come facevano i padri del deserto. Ma anche là il satellite viene a ficcare il naso, state tranquilli che anche là il satellite viene a ficcare il naso. Ormai, secondo Fanzaga, bisogna parlare solo attraverso i pizzini. Il mondo tecnologico oggi è tale per cui non c'è più riservatezza. Cioè, alla fine dovremmo parlare con i pizzini. Si fanno i pizzini, si passano i bigliettini. Con l'avvertenza di distruggerli subito, non lo so, forse parlare con i segni. Qualcosa, sì, non lo so, perché qui per sopravvivere al ficcanaso universale, non lo so. E va bene, Don Livio Fanzaga ha detto la sua, mi sembra molto favorevole, molto molto favorevole alla legge sulle intercettazioni, o comunque contrario, il mitico direttore di Radio Maria, alla vulgata sulla legge Bavaglio. 800 24 00 24, Carfagna versus il ministro Carfagna versus il sindaco dell'Aquila Cialente su quello che è accaduto l'altro giorno, fate volgare disinformazione, esiste sull'Aquila e sul terremoto, secondo il ministro Carfagna, una volgare disinformazione. Noi abbiamo bisogno di cassa, d'accordo? Perché che ci siano 8 miliardi sulla carta, cioè sulla legge, che sia lo stanziamento, è vero. Non c'è cassa, tant'è vero che si è bloccata la ricostruzione di tutto. Quindi non sono ancora arrivati. Sono stati stanziati, ma non sono arrivati. 2 miliardi non sono bruscolini, no, e poi sono 6 miliardi e mezzo sparati. Però non sono arrivati ancora, ministro. Non sono arrivati. Arriveranno, però finora non sono arrivati. Sono stati destinati e vincolati alla ricostruzione. Lui, il sindaco, giustamente sta sostenendo che non sono arrivati. Per quello che riguarda il terremoto in Abruzzo, è stata fatta volgare disinformazione. Allora, ministro, sulla pelle dei cittadini abruzzesi. Aspetti, che dobbiamo chiudere, che già gli mandano la sigla di coda. Ancora Carfagna versus Cialente con Bianca Berlinguer che dice a un certo punto, beh sì, insomma, inviteremo la Carfagna a parlare anche dell'Aquila visto che sa tutto, insomma la prende un po' in giro, sentite. Adesso diciamo la verità, non ci sono i soldi, altrimenti se ci fossero i soldi noi non perché torneremo a pagare il 100% delle tasse dal primo gennaio, ma avremmo trattati come il primo anno, come il Molise, come il Foggia. Allora adesso vi devo interrompere a tutte e due, ma tanto ci ritorneremo sicuramente su questa questione là, e visto che abbiamo visto che è così ferrata, la chiameremo a discutere, oltre che delle varie opportunità, anche delle questioni che riguardano la ricostruzione dell'Aquila. Bene, 18:39, 800-24-0024, Riccardo da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Che bello sentirvi in onda. Io stamattina ho acceso la radio e ho sentito le varie selezioni musicali. Sì. E adesso sono bloccato sull'autostrada qui, Camenago, Santiago, e ho detto speriamo che ci vada Zanzara, infatti eccoci qua. Qui niente musica, oggi avete ascoltato per l'intera giornata le nostre selezioni musicali, adesso fino alle 21 niente musica, la Zanzara anche nella giornata di sciopero. Una piccola proposta per la prossima volta in cui magari i giornalisti devono scioperare, a me sarebbe... Innanzitutto non deve scioperare nessuno, lo sciopero è una libera scelta, almeno spero. Sono assolutamente d'accordo, mi sarei però aspettato... oggi in questa particolare situazione che magari i giornalisti preparassero, che so, una trasmissione registrata da far andare anche in maniera continua con un'analisi anche un po' tecnica per farci capire anche il motivo, sulla legge intendo dire, anche per farci capire il motivo per cui c'è questo sciopero e anche per avvicinarci un pochettino di più a tutta questa diatriba. Sarebbe stato più utile, credo, piuttosto che zittirsi. Beh, sicuramente parlare è più utile che essere silenziosi, almeno secondo me. Esatto. Riccardo, cosa vuole aggiungere? Niente di particolare, complimenti per la trasmissione. Va bene, grazie. Alberto da Milano, buonasera. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione. Senta, il mio intervento riguarda appunto un giudizio su questo sciopero, che trovo, come dire, va bene al venerdì per andare in vacanza, ma sostanzialmente visto come protesta nei confronti di una legge, in realtà è una protesta non tanto nei confronti di una legge che va a privare la magistratura, la stampa di quello che è un diritto di informazione, ma è una legge che garantisce sostanzialmente, secondo me, degli elementi, uno corporativo e un diritto corporativo di queste due corporazioni, la categoria dei magistrati e la categoria dei giornalisti. Perché andare innanzitutto, a scusi, lo sciopero dei giornalisti non è dei magistrati, o almeno sì, ancora non no, è dei magistrati. No, ma io dico che diciamo, ci sono due corporazioni in questo momento con questa protesta vogliono difendere due diritti, diciamo un diritto per ciascuna corporazione. Uno che è quello dei giornalisti, di poter mettere in mattina delle vicende magari private, boccaccesche o meno, di quel diputato prima stato, e in realtà abbiamo tutto prima pagina. Queste sono cose che si... La sentiamo male. 800-24-00-24 per chiamarci. Dove andiamo a parare? Io direi di farvi risentire che cosa? La mitica Iva Zanicchi, ieri intervenuta alla Zanzara dopo le sue dichiarazioni un giorno da pecora, insomma ha insistito e soprattutto è stata anche più pesante nei confronti di Gianfranco Fini. Partiamo con la Zanicchi. Prendi questa mano bravo politico, non ha detto, non ha offeso la sua... No, ho detto solo che in questo momento, visto questi minuetti, queste danze, queste cose, sai, io così per quello che penso, ho detto a questo punto fuori dalle palle. Guarda nei miei occhi. Vai fuori dal PDL, perché evidentemente tu che hai contribuito a formare il PDL, che hai voluto, e subito dopo, non sono passati manco 20 giorni, non era contento, era scontento, ha cominciato a far casino, e allora vai dall'altra parte, che magari forse avrà anche più soddisfazioni. Il presidente Fini, io soltanto ho detto questo, non credo che sia diventato improvvisamente comunista. No, Si scioglierà un amore. Berlusconi, che è così grande, magnanimo, può anche ricucire se c'è uno strappo. Questo ho detto, lui può. Speriamo anche che succeda, riprendere sotto la sua ala protettrice e far sì che il presidente Fini appoggi il suo capino sulle sue spalle. E qualcuno ha detto, cosa hai detto? Palle? No, ho detto spalle. Palle. Ascolta la registrazione, va bene? Io ci credo in Berlusconi, perché lui davvero crede in tutto quello che fa. Poi magari sbaglia, come tutti, e dica Dio, Ma come si va fuori dalle palle? Io non è, però Giove sì. Io ho creduto fermamente in Berlusconi. Se lui mi delude, e io vado da qualche altra parte. Ma hai capito? Ma è delusa? È già delusa? Poco. Diventerò io presto comunista, ragazzi, tenetemi forte. Può darsi, tanti amici carissimi. Magari vado con loro, mi troverò bene, senz'altro. Io credo nelle persone, a parte gli scherzi. Io ho grande stima delle persone, credo nella persona, più che della fede politica, destra, sinistra. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Il vino lo bevete stasera? Abbiamo delle bottiglie, lo sai con che etichetta? Lei non ci crederà mai. C'è un vino emiliano, reggiano, che c'è un'etichetta sopra con l'immagine di Stalin. Tanti anni fa gli ho regalato una bottiglia anche a Berlusconi. E lui che ha detto? Non lo so. Siamo qui con Luca Telese, che oggi lavora perché lo sciopero della carta stampata era ieri, e infatti oggi i giornali non tutti sono usciti. Caro Luca, allora, ci sei? Sì. Eccoci qui. Ne sono usciti, diciamo la maggior parte non sono usciti, non tutti. No, la maggior parte. Sono usciti in pochi, tutti crumiri, no? Non mi dire che anche tu sei no, di quelli... No, su questo sono meno intransigente, che penso che l'argomentazione non ci si imbavaglia, perché il professore Bavaglio abbia una sua forza stringente. Un ascoltatore da Verona mi scrive una cosa terribile: i crumiri che non scioperano, che non scendono in piazza, hanno nella storia permesso i soprusi e le tragedie peggiori. Perché ho esordito questa sera, caro Luca, dicendo che non sciopero, ma questa non è una novità, perché sono sempre andati in onda negli ultimi anni, anzi forse sempre, e dunque mi sono beccato subito i primi improperi. Sto favoreggiando un crumiro. Stai favoreggiando un crumiro, esatto, stai partecipando a una trasmissione. Simulerò un'interferenza. Ma come si fa oggi a scrivere? Non ci sono notizie, non c'è niente. Vedo? No, meglio, si deve scavare, Anche la DN Kronos è crumira. Ah, anche la DN Kronos è crumira, è vero, bravo, bravo. Sono tutti crumiri anche alla DN Kronos. Senti, ma sentiamo qualche ascoltatore, che dici? Sì. Carmen da Verona. Buongiorno signor Crociani, io volevo appunto dire che non è che capisca molto lo sciopero dei giornalisti, perché potesterebbero meglio dando più notizie ancora, anziché non darne per niente. Poi, già che ci sono, vorrei dire un po' qualcosa sullo sciopero. Lo sciopero per me è distruzione di ricchezza, e quando la ricchezza è distrutta, chi è che ne va di mezzo? Il più debole, quindi è sempre il lavoratore. E poi vorrei sapere, in Italia fanno tanti scioperi politici, contro gli scioperi, che arme ha in mano il datore di lavoro? Vabbè, adesso non ci impelaghiamo in queste cose sindacali. Caro Luca, la prima parte del ragionamento della signora, io credo che sia condivisa dagli italiani. Secondo te gli italiani capiscono uno sciopero di questo tipo? Adesso se ti metti a attaccare il diritto di sciopero... No, il diritto, no, ma no, il diritto, no, nessuno attacca il diritto di sciopero, ma figuriamoci. Ma anche questa idea di istruzione di ricchezza, lo sciopero... No, no, ma questa è un'altra cosa. È un prezzo che paga uno, non lavorando, non guadagna dei soldi, credo che vada rispettato. No, assolutamente, assolutamente. Però la signora dice, la gente non capisce, forse non ha ben capito il senso di questo sciopero. Ha torto o ha ragione? Sai... L'argomentazione la gente non capisce. Io credo che questa legge, l'ho detto già, andrebbe centrata più che sul problema della libertà, sul problema della difficoltà di indagare. Però detto questo, alla fine lo sciopero otterrà il fatto che tutti i giornali che simpaticamente censurano il dibattito su questa legge saranno costretti a capirlo, la gente non va in edicola e magari si chiederà ma come mai non c'è il giornale oggi? Cioè c'è anche il problema che esiste il giornalismo minzoliniano. Vedi la scomparsa delle botte gli affilani, che noi abbiamo discusso a lungo, ma discusso, ecco, forse quel tipo di giornalismo un po' censorio rende necessario anche dei mezzi estremi. Però in realtà non sono scomparse nelle botte dal TG1, ma c'è stato nei titoli delle 13.30 non dai, c'era. Ma è che c'è sempre questa cosa meravigliosa che alle 13.30 accadono cose nefande, poi la gente protesta. Ma in realtà c'era un servizio. Lui corregge nelle 13.30. Sai che è una specie di pay per view questo TG1. Se uno dice no, voglio quella notizia, la sera se rivede c'è molte proteste, allora la reinserisce. No, in realtà credo ieri o quando ci sono stati gli incidenti l'altro ieri nei titoli delle 13.30 non c'era appunto il titolo sulla vicenda di L'Aquila, ma c'era un servizio assolutamente normale in cui si raccontavano i fatti, poi il titolo c'era invece nel telegiornale delle... Sì, però non è che sono dettagli delle 20. Ma sì, sono dettagli, in questo caso sono dettagli, non stiamo parlando della vicenda. È la terza volta che nell'edizione delle 13.30 c'è qualcosa che scompare, lì avvengono assoluzioni. Ma nei titoli in questo caso, nei titoli. Ma sei tu la risposta al minzolinismo, è il tuo giornalismo corretto, cioè tu dai le tue idee che fanno incazzare gli ascoltatori zanzaristi di sinistra, secondo me sono la maggioranza, incontro, ti dai testa Cruciani, sono molto arrabbiati, però ti ascoltano perché dai le notizie, loro le nascondono, questa è la diversità. Beh, in questo caso io credo che non l'abbiano nascosta, perché non c'era nei titoli, poi c'era un servizio molto ampio. Vabbè, comunque lo sai che hanno dato un premio a Minzolini? Oddio, che premio è? Poi te lo faccio ascoltare. Umberto da Brescia, un premio della... Premio dell'Adriatico si chiama, Umberto da Brescia, buonasera. Sì, buonasera, mi fa molto piacere questa evoluzione della trasmissione dove vi faccio complimenti ad entrambi con questo confronto e mi fa molto piacere. Volevo solo chiedere una precisazione soprattutto in merito a che cosa. E soprattutto è un diritto del cittadino sapere, ma è un dovere del giornalista informare e che quindi se è un dovere... Ciò che è consentito dalla legge perché non deve essere consentito. Non ho capito niente, Umberto, scusi, mi precisi un po' questo. Vorrei sapere, se questo sciopero dei lo sciopero è non sui principi generali, lo sciopero è sulla legge cosiddetta bavaglio, diciamo. Perfetto, ma è cosiddetta bavaglio, ma perché è un dovere, allora si vuole imbavagliare quello che dovrebbe essere un dovere del giornalista di informare e imbavagliare un diritto del cittadino di sapere. E quindi c'è già una legge che diciamo delimita quali sono il range in cui può stare o non si può stare nell'informare, giusto? Sì, insomma, è un po' confuso il suo ragionamento, comunque diciamo che ho capito, dunque. Ok, e l'altra cosa è, io mi sono un po' stufato come cittadino elettore di tutto sto sforzo e tutto sto tempo impiegato a imbavagliare l'informazione, quando delle regole ci sono già, quando invece ci sono delle priorità molto più importanti, soprattutto nell'andare a fare delle battaglie molto più profonde. Ho capito. Tipo vengono prima altre cose, Umberto, però questo è un ragionamento un po'... Una tesi, non è che tutti gli sforzi sono concentrati su questa legge, abbiamo assistito anche a delle polemiche sulla manovra economica, per cui insomma, non è che tutto il Parlamento è mobilitato per far approvare la legge sulle intercettazioni. Fabio, provincia di Como. Buonasera. Buonasera, dica. Volevo dire, dunque, se il problema è che la zanzara va in onda e quindi potrebbe essere appunto un crumiro, direi che prima... Noi scherziamo naturalmente, noi scherziamo un po' su questo, sì, no, mi pare evidente. Perdoni, ma prima lei dovrebbe dimostrare di essere un giornalista. Ah, ovviamente, vabbè, ok, ho capito. Vabbè, è una battuta, ovviamente. Infatti, allora siamo sulle battute. No, volevo anche far notare una posizione che poteva essere interessante, che ho letto sul fatto di ieri un articolo di Massimo Fini, sì, che va a centrare il fatto che qui è uno sciopero protestoso non solo perché chiudendo i giornali ci si autoimbavaglia, ma soprattutto perché non si difende il diritto alla privacy. Dice lui, il miglior modo per difendere il diritto alla privacy è di abbreviare i tempi dell'istruttoria nei processi, di modo che durante l'istruttoria si mantenga il segreto sulle indagini, come sì, per esempio. Cioè lui dice perché i giornalisti, così mi sembra di aver capito, ma qui c'è Telese che sicuramente lo sa meglio di noi, perché i giornalisti non protestano per i processi che durano tanto e invece protestano per questa legge? Giusto Fabio? E quello che volevo dire io è semplicemente, che voleva dire è vero, potrebbe, sotto quest'ottica lo sciopero di oggi potrebbe essere visto come pretestuoso, del resto bisogna anche dire che è un giorno su 365, quindi non è un vero bavaglio, e sicuramente può servire a far aprire gli occhi a tanta gente che oggi in edicola ha detto, beh, perché non ci sono i giornali? Perché secondo me molta gente non sa assolutamente cosa c'è in ballo con questa legge, con questo DDL, e se questa iniziativa può far sorgere un dubbio nella testa delle persone, che siano di destra, di centro, di sinistra, beh, secondo me ha già raggiunto uno scopo. Tutto qua. Però vede qual è la contraddizione, Fabio? Lei queste cose le può dire oggi perché siamo in onda. Sì, è perché mi avete passato la telefonata. Vabbè, certo, la telefonata, guardi, non faccio battute su questa cosa, perché certamente non abbiamo problemi a far passare le telefonate diciamo scomode, le telefonate che teoricamente non possono piacere al conduttore. Ma sai perché me l'avete passata? Perché? Perché io le ho fatto quella battuta. Ma no Fabio, io non so nemmeno perché passano le telefonate, perché non le controllo, non controllo il centralino. Eccoci qui alle 19:07 minuti, di nuovo in onda con la Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo a sentire gli ascoltatori che ci stanno chiamando al numero verde. Michele da Genova, prego. Pronto? Dica Michele. Ecco, buonasera. Buonasera. Ecco, volevo rivolgere una proposta a lei e anche al signor Telese, perché fra l'altro sono un suo lettore sul Fatto e mi diverte molto. Ecco, l'idea era questa. Lo sciopero, ok, va tutto bene, posso condividere. Sarebbe piaciuto, e fra l'altro secondo me avrebbe lasciato anche un bel segno, tipo fare un'edizione straordinaria dei giornali con tutte le notizie che non si sarebbero mai più potute sentire, un excursus di notizie, e magari anche i telegiornali in questa maniera, una copia da collezione, diciamo, un'iniziativa un po' diversa. Ma Michele, questa era una delle proposte in campo per come alternativa allo sciopero. Mi sembra che poi non sia passata. Ah, beh, no, questo non lo sapevo. Va bene, grazie. Marco, provincia di Milano. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Buonasera, dica. Io noto con molto interesse che la sua trasmissione si apre molto spesso, come è accaduto anche stasera, facendo passare la prima mezz'ora come melina, per usare un eufemismo. Come, scusi? Melina, no? Per usare un termine. Che vuol dire melina? Facendo passare il tempo e dando la voce a personaggi che secondo me hanno ben poco da dire. Oggi Emanuele Filiberto, ora la Garfagna come stasera, Iva Zanicchi, quando poi lei stesso attacca uno come Franco Battiato, che voglio dire, tra Zanicchi e Battiato c'è un bel po'. Senta, di differenza. Marco, allora, se vogliamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Se vogliamo parlare dei nostri ospiti alla Zanzara, ne facciamo anche a meno. Finisco, dottor Cruciani. Ne facciamo anche a meno. Insisto, ne facciamo anche a meno. Gli ospiti li scegliamo noi. Se a lei vanno a genio, siamo molto contenti. Se a lei non vanno a genio, pazienza, ce ne faremo una ragione. Al che pongo una domanda, che è questa. Lei non sente, va avanti per la sua strada, come se non sentisse, come se non ascoltasse. Ma va bene lo stesso. Ho sentito benissimo, dottor, lo ascolto spesso. Allora, grazie, io la ringrazio molto e mi piacerebbe se lei continuasse ad ascoltarci. Però se non le piacciono i nostri ospiti, pazienza, cosa vogliamo fare? posso porre una domanda? Prego, faccia ecco, la sua domanda, Marco. Il numero di Beppe Grillo, visto che alle ultime elezioni, senza chiedere più soldi agli italiani che non ne hanno più da dare a questa gente qua. A questa gente chi sarebbe? A questa gente chi sarebbe? A questa gente? A questa gente che fa politica. A questa gentaglia dunque, no? A questa gentaglia che fa politica. Aggiunga gentaglia che è meglio, fa più chic. Gentaglia, bravissimo. È più da indignati, sì, è più da incazzati. Se vuole possiamo anche andare più in profondità. Vada pure Marco, vada ecco. Pure. A questa, come li definirebbe lei? Tutti i politici, gentaglia. Taglia, come li definirebbe? Beh, a queste merde che occupano... Merde, sì, perché no? In merde. Improprio, sì, improprio, così. Parlamento. Ecco, ma perché non andare ancora più a fondo, Marco? Perché non andare ancora più a fondo? Perché solo merde? Ma il numero del signor Grillo non ce l'avete per poter sentire cosa dice lui. Il numero del signor Grillo? Lo sconosco il numero del signor Grillo. Ce l'abbiamo, ma non lo chiamo. Cosa vuole fare? Scegliamo noi gli ospiti. Preferiamo Iva Zanicchi a Beppe Grillo. Le dà fastidio? Complimenti. Le dà fastidio? No, complimenti. Grazie. Noi preferiamo Iva Zanicchi a Beppe Grillo. Complimenti. Grazie. Complimenti. Molto gentile. Oltre a merde, cosa si può aggiungere, però, Marco? Non c'è solo merde. Dobbiamo essere un po' più indignati. Ma no, direi che quello è già un termine che sì. Probabilmente è già molto complimentoso, dai. Certo. Assolutamente. Va già bene che c'è Luca Telese almeno, che almeno controbilancia un pochino. Controbilancia cosa? Controbilancia il fatto di sentire la prima mezz'ora che va via con Emanuele Filiberto, con Umberto Smaila. Lei è fissato ancora con Emanuele Filiberto e con Umberto Smaila, eh? Scusi, non sono fissato. Io penso che un'apertura di una trasmissione, tra l'altro nella fascia dove penso io sia quella più seguita, no? Dalle 7. Per fortuna sì, abbiamo un certo gradimento, se non le dà fastidio. Ma è anche meritato, aggiungo. Grazie. Cioè lei contesta il fatto che noi, per esempio, ieri sera abbiamo invitato Iva Zanicchi, la quale ha mandato a quel paese, era collegata, dopo essere stata collegata con una trasmissione nostra amica di Radio 2 in giorno da pecora, era collegata anche con noi ieri dalle montagne dell'Appennino emiliano, ed è stato un collegamento molto simpatico, perché la signora era in vena, ha detto ancora altre cose su Fini, ha detto di essersi un po' stufata anche di Berlusconi. A lei questa cosa non piace? No, non è che non mi piaccia, non capisco. A me è piaciuta moltissimo, vede la differenza? A me è piaciuta tantissimo questa cosa qui. Mi sono divertito come un pazzo, mi sono messo a ridere, ridevo in diretta, non finivo di ridere. Lei si prende troppo sul serio, le do un consiglio, si prende troppo sul serio. Bisogna prendere la vita anche in modo leggero. Penso che in Italia abbiamo veramente da sbizzarrici sulle indagini why not. No, veramente le indagini why not non sono andate da nessuna parte, le faccio presente. Tanto per... No, non sono andate perché non si sono volute far andare. Ho capito. La strage di Via D'Amelio. Sì. La Zanicchi che cosa può dire? Ma che c'entra? Meno, il signor Grillo, ma che c'entra? Qui ci paese, no? Allora, Marco, noi la sera ci divertiamo. A lei può non piacere, ogni tanto ci divertiamo, ogni tanto siamo seri, siamo così. Lei continua ad ascoltarci, a me fa piacere, io spero che lei continui ad ascoltarci, però noi siamo fatti così, ogni tanto siamo leggeri, ogni tanto un po' più seriosi, è così. La vita è fatta così, mica è fatta solo di incazzature, di indignazione, di queste cose qui, di Beppe Grilli. Pensavo che, come non so, la mattina ascolto Giannino, che come stamattina ha parlato del cemento. Che, guardi che se non la smette, l'evento Emanuele Filiberto che ha cantato da noi qui in diretta. Ma posso dirgli qualche cosa? Guardi, glielo metto, le faccio un torto. Grazie, Marco. A lei, buonasera. Grazie. Direttore del Riformista, Antonio Polito, buonasera. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto mi deve dire perché Riformista tifa arancione, perché anch'io tifo Olanda, però lì c'è un conflitto di interesse, perché voi avete la testata arancione e siete stati dalla parte, dell'arancione quando questo veniva sventolato in politica, solo per questo oppure c'è qualcosa? Noi siamo arancioni, diciamo così, antemarcia, nel senso che da 8 anni siamo nati arancioni. E poi io ho accennato per qualche ragione, insomma, gli olandesi mi piacciono per tante ragioni, una delle quali è quelle che hanno fatto una grande guerra di indipendenza nazionale contro l'impero spagnolo e l'hanno vinta, si sono emancipati anche dal punto di vista della religione, di conseguenza hanno inventato una cosa chiamata capitalismo che ha avuto un certo successo, sono persone molto civili, è un paese molto libero, uno dei più liberi d'Europa. Assolutamente. E anche la Spagna, anche la Spagna, per carità. Sì, beh, insomma, Amsterdam ha una sua storia da questo punto di vista. E poi hanno inventato, diciamo, hanno introdotto il collettivismo nel calcio, trasformandolo in una roba molto, molto seria, molto efficiente, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, detto tutto questo, io devo confessare che sono un tifoso di Snyder, che sono interista. Ah, ecco, la verità è questa. Resto, diciamo, passa in secondo piano. Però non è che tutti al suo giornale. Lei ha coinvolto in questa. Vabbè, ma io sono il direttore, me lo posso permettere, almeno questo. Almeno questo, sì. Ma oggi abbiamo il traffico che c'è sciopero o no? C'è anche quelli del traffico non sciopero, no? Forse perché non sono giornalisti. Allora, il direttore del Riformista Antonio Polito, che è uno dei giornali che oggi sono in edicola e che dunque ieri non ha scioperato. Adesso non voglio fare una polemica, anche perché non è qui con il direttore del Fatto, Antonio Padellaro, però devo dirle, Polito, che mi ha dato un po' fastidio uno scritto di Padellaro di un paio di giorni fa, forse di ieri addirittura, in cui diceva, insomma, tutti quelli che escono in edicola oggi sono giornali più o meno filo berlusconiani, giornali del padrone, adesso non mi ricordo bene la definizione, e poi il sindacato si deve svegliare, deve fare fuori tutti i crumiri, in che modo poi non si capisce. Mi sembrava questo il senso, no, di quell'articolo, non so se lei l'ha letto. Sì, l'ho letto. Sì, vabbè, insomma, io appunto non mi faccio polemizzare. No, ma anche perché non c'era, anche perché poi c'è stata anche una discussione all'interno di quel giornale. Sì, appunto, la cosa curiosa è quella che lo stesso Padellaro e sul Fatto aveva detto che avrebbe preferito non fare lo sciopero, che avevano suggerito all'FNC di fare qualche altra forma di lotta, che lo sciopero forse era una forma di lotta stupida. In effetti anche loro, come tanti altri colleghi, ho visto anche la reazione alla Stampa, c'è stato il CDL che aveva proposto all'FNC di non scioperare. Insomma, il suo sciopero non è che poi molti l'hanno fatto per obbligo, non essendone molto convinti, lo stesso Padellaro era tra questi, quindi diciamo semplicemente io poi mi sono preso il diritto di fare ciò che pensavo. Devo dire la verità, c'è stata anche una decisione a maggioranza della sua redazione, ecco, eh? Appunto, devo dire la verità, c'è stato anche un voto dell'assemblea di redazione che a maggioranza ha deciso di non aderire allo sciopero sulla base di motivazioni che sono anche molto simili alle mie, insomma, quindi ognuno fa come infatti sono scioperi politici, quindi ognuno ha diritto di comportarsi come ritiene senza insolentire gli altri. Io per esempio ho avuto dei colleghi in redazione che invece hanno scioperato, pur essendo in minoranza, niente da dire. Cioè non è che sono trattati come degli esseri, insomma, bizzarri. Ecco, insomma, l'idea che ci sono i buoni, diciamo, questa antica abitudine di selezionare quelli per bene che si comportano secondo le opinioni, diciamo così, corrette, e quelli per male che non lo fanno. Ecco, io provo sempre a non caderci. Senta, la ragione principale, al di là di questa questione che è stata ripetuta un po' da tutti, cioè scioperare mentre si protesta contro la legge cosiddetta bavaglio, che è forse la principale contraddizione, naturalmente per quelli che non scioperano, qual è stata per quello che la riguarda? Ma io ho un'opinione, diciamo così, personale, che ho sostenuto anche. Lo sostengo da giornalista, ho sostenuto quella nella mia breve vicenda parlamentare quando sono stato senatore, cioè credo che in Italia si sia squilibrato troppo il rapporto tra, diciamo così, la violazione della riservatezza delle comunicazioni private che è sancita dalla Costituzione, ma che è consentita in casi di indagini che lo ritengano necessario, ovviamente, cioè indagini importanti contro le associazioni per delinquere, contro i gruppi legati da omertà, no? Come la Camorra, la 'Ndrangheta, la mafia, cioè indagini in cui altrimenti non si può scoprire, diciamo così, sì, venire a conoscenza di un delitto, di un indizio, di un reato, eccetera. E dall'altra parte però l'esigenza di rispettare quel dettato costituzionale, cioè normalmente le comunicazioni personali sono riservate. Si è un po' squilibrata questa cosa e soprattutto da parte di molti si considerano le pubblicazioni delle intercettazioni più che come uno strumento di indagine poi, diciamo così, che finisce anche sui giornali, ma quasi come un modo per scoprire le malefatte del potere, per vendicare, diciamo così, per consentire all'opinione pubblica di sapere cosa veramente fa il potere, anche quando questo non porta magari a un'inchiesta giudiziaria o a una condanna. E questo ovviamente non va bene, perché questa è, diciamo, una concezione da gogna pubblica. Un po', ecco, mediale. Però è molto diffusa questa convinzione. Devo dire, è diffusa la convinzione che pubblicando le intercettazioni, pubblicando non solo le intercettazioni, ma anche i verbali, prima di quando dovrebbero essere pubblicati, secondo la legge che già esiste adesso, c'è l'idea che, insomma, si sa qualcosa del, finalmente in questo modo sappiamo qualcosa di quello che avviene nelle stanze segrete del potere, sappiamo qualcosa sulla cricca, sulle malefatte, sugli appalti, sulle corruzioni, eccetera eccetera. C'è un diritto a conoscere le cose, esiste questo diritto? No, il diritto a conoscere le cose ovviamente esiste, e le inchieste giornalistiche sono fatte per questo, e la libertà di stampa è fatta per questo, intendiamoci. E non è che le inchieste giornalistiche non si facessero, voglio dire, lo scandalo Sifar o lo scandalo Lockheed, che sono, hanno prodotto dimissioni di Presidenti della Repubblica in Italia, non è che sono avvenute anche quando non c'erano intercettazioni, quindi insomma non è, serve a quello la libertà di stampa. Il problema è un altro, il problema è capire se diciamo, i giornali devono diventare la buca delle lettere, cioè il ciclostile di brogliacci spesso di polizia giudiziaria, neanche del giudice, ma proprio di quello che investiga, che spesso magari capisce male, sintetizza male il contenuto delle telefonate, ci infila dentro anche cose che riguardano terze persone che non hanno niente a che vedere con l'indagine. Ora, questo è, ecco, questa idea che lei esponeva è un'idea un po' da stato di polizia, cioè un po' l'idea di tutti i regimi un po' tirannici, dove si dice, vabbè, c'è la polizia che vi entra nelle case, quindi sappiamo tutto di voi e vi teniamo sotto controllo. Questo ovviamente non va bene. Non c'entra niente poi il fatto che effettivamente questa legge del governo limita, secondo me, eccessivamente la possibilità dei PM di usare le intercettazioni in molti casi. Questo è sbagliato, perché le indagini servono. Però questa orgia, diciamo così, per cui sui giornali bisogna pubblicare pagine e pagine di telefonate, spesso anche incomprensibili, dove la gente parla in maniera strana, con questi dialetti, questi vernacoli, diciamo parolacce, insomma, è un voyeurismo, secondo me, un po' esagerato, che non fa onore ai giornalisti italiani difendere il voyeurismo invece della sana, vera, certificata e controllata inchiesta giornalistica. Pronto? Sì, sì, la sento. Le voglio far ascoltare una cosa che ho preso da Blob, credo ieri o l'altro ieri, ed è Patrizia D'Addario, che è in piazza Nuova durante la manifestazione. Viene praticamente adesso non voglio dire che tutti quelli che erano alla manifestazione di Piazza Navona sono degli estremisti che non volevano far parlare da Dario, però insomma forse qualche considerazione, come già abbiamo fatto nei giorni scorsi, si può fare. Sentiamo. Se ne vada, escort di merda, evviva la democrazia, ma diciamo la verità, ma ragazzi, lascia la pubblicità, è stata distrutta la mia vita, io da mio, la signora ha usato parolacce, ma qui stiamo parlando, ma quale cultura, stiamo parlando di libertà di stampa, stiamo parlando di dignità di stato, dell'informazione, io ce l'ho 10 volte di più di lei la mia dignità, la io ce l'ho signora. Di più, io ho raccontato la verità che altre persone non avrebbero raccontato, se ne vuole andare, perché qui difendiamo la cultura, non la signora D'Addario. Stare dove vuole, una persona può stare dove vuole. No, una non sta qui, perché qui ci sono i giornalisti. La signora non può stare dove cazzo vuole. No, certo, una persona è libera di stare come dove vuole. Sì, anche noi saremo liberi di fare la nostra mestiere. State sbagliando. Bisogna rispettare le persone. Ma è lei che non rispetta. Ma perché deve venire qui? L'ha organizzata lei la manifestazione? E siamo liberi, è libera di andare, certo, dove vuole, certo, ma la stampa dovrebbe raccontare quello che avviene là, non quello che avviene nel la sua verità, quella donna sta raccontando la sua verità, la sua verità è molto interessante, è molto interessante la verità della signora D'Addario. Non ha mai avuto il coraggio di fare quello che ho fatto io, lei. Allora, Polito, che significato ha questo episodio? Perché la signora che urlava contro la Daddario era una delle organizzatrici, però insomma, è significativo di qualche cosa o no? Ma insomma, non lo so, hanno trattato la Daddario come una prostituta, diciamo, non è stato... la Daddario aveva qualche ragione nel dire, guardate che poi tutto sommato tutto questo è nato perché io ho denunciato, ho raccontato come sono andate le cose, insomma, mi è piaciuto che da parte di persone che hanno giustamente, diciamo così, sfruttato, utilizzato anche l'indignazione che aveva provocato la vicenda descritta da Daddario, poi sia stata trattata la, diciamo così, la protagonista di quella vicenda in un modo così aggressivo, insomma. Sì, anche perché c'è diritto, penso, anche di andare a fare la pubblicità del proprio libro in piazza, insomma, non è mica uno scandalo. Beh, insomma. Sì, c'è diritto di partecipare alle manifestazioni di piazza, chiunque l'abbia convocata, sì, vabbè, ma insomma questo poi è frutto più di una polemica, no, di politica, insomma, cioè lì l'idea era tu ci sporchi le manifestazioni, sì, no? Sì, sì, però siccome sì, la manifestazione in qualche modo affondava le sue motivazioni anche nelle vicende che non avevano preso spunto dal racconto da Daddario, è stato un po' ingiusto, insomma, un po' sgradevole, ecco. Bene, grazie, buona serata. Grazie a voi. Grazie, buona serata. 19:27, andiamo in provincia di Pavia. Francesco. Sì, buonasera. Buonasera. Cioè, io spesso ascolto la sua trasmissione e la domanda che le fa ad alcuni ascoltatori è se è giusto pubblicare o meno le intercettazioni che riguardano la vita privata dei politici. Io su questo dico che è assolutamente giusto, in quanto i politici prendono decisioni e fanno scelte che è nel loro privato, nel loro essere privato, non sono dei fabbricanti di bulloni che lavorano 8 ore e poi finiscono lì, hanno una vita privata che sicuramente modifica o diciamo così guida le loro scelte e sono lì perché sono stati scelti da noi elettori in base a quello che loro dicono e ma per guardi quello che loro sono. Francesco, la vita privata dei politici oggi più che ieri, perché non è nella tradizione italiana, viene scandagliata in tanti modi. Se lei legge i giornali settimanali eccetera, sono pieni di notizie che riguardano la vita privata dei politici. La vita privata significa gli affetti, gli amori, gli amorazzi, le separazioni, gli amanti, gli pseudamanti eccetera eccetera, la famiglia. Non capisco cosa c'entra questo con le intercettazioni o comunque con i verbali, mi spieghi? Le spiego, se io sono un politico e cioè quelli sono eletto, sottoposti alla legge, ha capito? Cioè è un'indagine penale, sì, non è un'indagine giornalistica, è un'altra cosa. Sono d'accordo, se però l'indagine riguarda un politico che è in quel posto perché si è eletto, è stato eletto dal popolo in quanto a difensore dei sacri principi di famiglia, di religione, eccetera, eccetera, e allora questo poi si scopre che fa il tra virgolette puttaniere, con tutto il rispetto, ho capito, parlando. Ma come si scopre questa cosa? Bisogna vedere come si scopre questa cosa, Francesco. Bisogna vedere come si scopre questa cosa. Guardi che nessuno ha impedito alla signora Daddario di pubblicare il suo libro o di far ascoltare le sue registrazioni se vuole. Nessuno ha lasciamo perdere Daddario e tutto quella frangia lì. Io sto parlando semplicemente del fatto che un politico che viene, diciamo così, controllato, quindi intercettato. Ma controllato e intercettato, non è, lei sbaglia termine, l'intercettazione non è un controllo. Non è un controllo per sapere se il politico fa qualcosa, è sbagliato il punto di partenza. Allora, c'è la pubblicità, un attimo, torno subito con lei, c'è la pubblicità. Signore e signori italiani, mi chiedono se io andrò o meno all'Isola dei Famosi. Decidete voi, il mio numero di telefono lo conoscete bene, apparirà anche in sottimpressione. Decidete se io debba andare o non debba andare all'Isola dei Famosi. Nel Parlamento porterei come parlamentari. No, adesso. Parlamentari porterei la Comi. Certo. Sì. Porterei la Matera. Sì. Porterei la. Tutti uomini, direi. Sì. Ragazzi, se uno deve farla. Lo fa o non lo fa. Cosa c'è? La notte buia. Tutte le vacche sono nere. Ma quali vacche? Come diceva, quindi come tale. Ma è rincoglionito! Eccoci qui con Mastella che propone ancora una volta la sua partecipazione all'Isola dei Famosi dopo averlo fatto da questi microfoni, e direi di farvi ascoltare insieme a Luca Terese, che è tornato con noi, una gentile signora. Senti Luca, senti questa qui, una gentile signora che ieri è stata in collegamento con noi, Luisa, provincia di Torino, era convinta, è convinta, credo, che Berlusconi abbia dei gravi problemi alla personalità. E allora introduciamo in questo modo con una bella canzone, ce l'avete, non ce l'avete? Ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo. Introduciamo in questo modo, andiamo. Vado così, mi trascina non so chi, attraverso corsie, non capisco che cosa è successo, sono depresso. Non è possibile essere governati da persone così. Mi scusi un attimo, mi sembra francamente. Non è uno psichiatra per capirlo. E mi creda, adesso, glielo dice uno. Siamo passati dai. Ha sofferto di depressione. E fra noi ci capiamo. Io ne sono uscita. Berlusconi è nel pieno della sua malattia. Sarà un po' di Alzheimer, sarà un po' di anche eccesso di protagonismo. La mia fine la chiami progresso. Io capisco che è un depresso guardandolo negli occhi e sentendolo parlare 10 minuti. Berlusconi non è una persona a posto di testa. Se lei non vuole credere a me, ma interpelli qualunque psichiatra che lo sente parlare e lo vede agire, cioè è palese. Sono depresso. Di cosa ha bisogno Berlusconi secondo lei? Di un medico sicuramente, però ormai con l'età che ha cosa vuole che passano? I malati di depressione come minimo vengono curati per 10-15 anni prima di guarire. Con lui ormai è tempo perso. Vedi, non son matto come credi. Se un matto c'è sei tu. Caro Luca, hai sentito la mitica signora Luisa dalla provincia di Torino? Tosta, mi piacciono queste ascoltatrici roventi in realtà convinte che Berlusconi sia una sorta di malato di mente, forse l'ultima frontiera dell'anti-berlusconismo, so che non sei d'accordo. La frontiera psichiatrica. Che ci sono vari studi su questo, però sai, sono quei luoghi comuni in cui sbagliati che hanno un senso di verità, tipo che la sinistra perde che è antipatica. No? C'è un famoso saggio perché la sinistra ha regalato la vittoria a Berlusconi, e Berlusconi insomma qualche problema di ego simpaticamente risolto ce l'ha. Ho capito, ma insomma, adesso non siamo a livelli di psichiatri come, o comunque di cure come dice la signora, adesso per carità, poi tanta gente va da svariati strizza cervelli in Italia pur non avendo problemi gravi, dunque magari potrebbe... anche io e te avremmo bisogno di Dici una strizzatina ci vorrebbe, forse sì, eh? Che dici? A te ti manca il microfono quando non sei in onda, quei giorni del Sudafrica. Ogni tanto sì, ogni tanto mi mancava. Solo per questo. Certosa e 30 bionde come Berlusconi. Solo per questo mi servirebbe uno strizzacervelli. No, vabbè, devo dirti che la cosa più mi ha colpito nei racconti delle Vergini di Palazzo Grazioli. Adesso che c'entrano le Vergini di Palazzo Grazioli? No, è quel racconto che lui le faceva vedere i suoi comizi. Ah, sì. Pensa beh. Che strazio, cioè qualcosa di che non va c'è in quella testa. Tu dici, perché effettivamente cioè, quando... Ho visto la Confindustria e queste ragazzine col tubino che... Effettivamente deve essere un supplizio, almeno questa parte qua è un supplizio, magari la bustarella no, adesso esageriamo naturalmente, no? Il regalino no. Quello è meno un supplizio, forse. Se c'è mai stato poi questa bustarella col regalino, come dice la Daddario. Vabbè, ma se una si è subito 10 comizi di Berlusconi registrati, altro che busto, non mi scandalizza, è giusto retribuire. Allora, Marino da Rimini, buonasera. Buonasera, dica. Ma io le consiglierei di arrampicarsi su altre cose, gli specchi sono lisci dalla Madonna. Ma infatti io sugli specchi non mi arrampico per quasi mai. Per fortuna che ha recuperato qualcosa di granitico, tipo Telese. Granitico, così. Telese, hai sentito? Sei granitico! Ma sono bei complimenti! Però, ma Telese dovrebbe vivere di dubbi essendo giornalista, invece è un granitico. Pulito da Dario. Come, scusi? Mi è piaciuto l'abbonamento pulito da Dario. In che senso, mi scusi? No, in un senso che non, cioè lo lascio a lei definire. Beh, no, me lo dica. Li ha messi assieme. No, non li ho messi insieme. Prima ha parlato Polito e poi abbiamo sentito gli insulti. Gli insulti non credo da Daddario. Che la Daddario abbiamo mai fatto la crumira. Non pensa che non credo abbia avuto la possibilità di fare la crumira, se poi. Sì, appunto. E invece io lo faccio. Lei questo vuole dire? No. Beh, io, cioè lei, sì, effettivamente questo è crumiraggio. Come crumiraggio? Io lo chiamo. Come crumiraggio, Marino? Lei, allora lei sta parlando. Non riesco a definire in un'altra maniera. Io sono un lavoratore, capito? Vabbè, che c'entra? Però. Ho lavorato tutta la vita. Ma lei mi pare preparatissimo, però, Marino, mi scusi. Lei quelli che non si operavano erano crumiri. È una definizione vecchia, antiquata, sbagliata. Sì, ma io sono vecchio, ho 63 anni. No, ma vecchia nel senso, mica volevo dare del vecchio, Marino, per carità. Però non permetterei. Io le volevo dire che stamattina su questa radio, perché io mi sintonizzo lì, in macchina ero, e ho sentito dire che la stampa italiana è quella meno libera d'Europa. Chi l'ha detto? Guardi, non mi ricordo la trasmissione, ma stamattina, diciamo, dalle 6:40 alle 7. Ma non so chi l'abbia potuto dire. Ma qui abbiamo un esponente della stampa libera italiana, Luca Telese, che l'ascolta, uno degli esponenti della stampa libera italiana. Noi siamo la stampa un po' così, un po' più dei padroni, no, Telese? No, non c'è. Non c'è solo lei a questa radio? No, per carità, noi della Zanzara, dicevo, noi della Zanzara. Al mattino uno proprio ha voglia di farsi strangolare, sente anche qualcun altro dalle 9 alle 10. E chi sente? Chi sente? Quel signore fa l'economista. Ma per non natura. Mi tocchi, non mi tocchi Giannino, Marino, non mi tocchi Giannino, non mi tocchi Giannino. Il nome non mi perveniva, per cui lei... Io non l'ho detto, l'ha detto lei. Allora, mi risulta tra l'altro, perché me l'ha detto stamattina, che Giannino abbia fatto una sparata, tra virgolette, comunque, non l'ho sentito, insomma, abbia parlato non della questione. Non cambio le batterie alla radio proprio perché non lo voglio sentire. E come non lo vuole sentire? Almeno lei sbaglia. Informami. Una cosa sullo sciopero, riprendiamola, tagliamola, riprendiamola. Adesso la riprendiamo con calma. Certo. Abbiamo un esponente della stampa libera qui, Marino, lei può parlare con una persona esponente della stampa democratica, libera? No, di quelli... ma sei molto più blasonato di me, io sono sul giornale Corsaro. Ma che giornale Corsaro? Sei in televisione a condurre talk show, ma di che stai parlando? Siete divertenti da matti. Vedi come una coppia perfetta. Ma noi in realtà siamo molto più d'accordo di quello che lei immagina, Marino. Ma lo penso. Ma lo sai, un attimo solo, Marino, caro Luca, fra poco chiameremo Mario Borghezio, che pare sia fissato con gli UFO. Sì, si è fissato anche con gli UFO. Cioè, ultimamente ha preso tutta una. Un filone ufologico. Passa il suo tempo a occuparsi di UFO al Parlamento europeo, proponendo studi, approfondimenti. Beh, insomma, tutto da ascoltare, perché. Capisce, caro Mario? Siamo da Oscar agli UFO, insomma, cioè, chi ascolta la radio ha una bella varietà. Marino! Sì, a proposito di Borghezio... Mi dica. Una volta, 10 anni fa anche più... Sì? In piazza Tripoli a Rimini stava facendo una manifestazione con 4-5 dei suoi, no? Che è successo? L'avete aggredito, facevano, no? Facevano un bel casino, d'estate... All'epoca erano davvero 4-5 in Romagna. Erano 4-5, infatti, siccome facevano molto chiasso, io ero seduto al bar e mi scappò proprio istintivo. Borghezio, quello ho beccato subito, gli ho detto, mi sembri un albanese ingrassato. Perché c'entrano gli albanesi? Perché gli albanesi? No, perché ce l'aveva a morte con tutti i terzomondiali in genere. Sì. Cosa del tutto, diciamo che noi qui viviamo con quelli. Sì. Lavorano nelle pensioni. Vabbè, insomma, lui se l'è presa o no? Sì, si è incazzato come una belva, però ha fermato i suoi perché volevano menarmi. Addirittura. Vabbè, erano le gaioli allora. Le gaioli, cioè, erano un po' più estremisti, lei dice, no? Sì. Vabbè, caro Marino, la ringrazio molto, grazie. Buonasera. Grazie, passi una buona serata. Pino, provincia di Roma, eccoci qui. Buonasera. Buonasera, pronto? Caro Pino, cosa mi vuole dire? No, all'inizio voglio darti del tu perché ogni tanto tradisci qualche slang romano e io sono in paese. Ma non c'è una solidarietà romana, no, però. Diamoci del lei così. Si vede che non c'è, nel senso, poi ho visto in televisione un po' magrolino, sì, e sei lontano da quella che chiamano Roma ladrona, però. Vabbè, io adesso voglio lasciamo perdere queste stupidaggini. Diamoci del lei così siamo pari con, sì, siamo, sì, pari con tutti. Passiamo del lei. L'unica cosa, dicevo, visto che lungo la strada sento sempre la zanzara ritornando a casa, credevo che questa sera andassi in onda una replica, te lo dico. E perché? Sinceramente. Ma la zanzara invece non può andare in replica, cioè, se non lo stesso giorno, la notte, come sapete. No, la replica alle 7, nel senso che siccome è un giornalista, Cruciani, che stimo, dico, sì, sicuramente oggi Cruciani sciopera. Ah. E invece... Ma lei non mi conosce zanzara, allora, io non sciopero mai. Lo so, non ho chiesto se scioperi sempre, mai o quando. Qui c'è un problema serio da affrontare e credo che dal punto di vista della coscienza del giornalista che si pone, guarda, ho visto quell'intervista molto bella sulla 7, quell'inchiesta molto bella, condotta anche molto bene, seria. Ho letto l'ultimo articolo su Abete, su Panorama, in cui si fanno degli appunti precisi, quindi mi aspettavo proprio come etica, ma non sto parlando della categoria dei giornalisti, sto parlando di Cruciani, mi aspettavo che oggi Cruciani con la sua coscienza scioperasse e sono rimasto un po' male. Mi dispiace di averla delusa, caro Pino. Luca, come possiamo rispondere a... No. Che bello, vedi il tuo popolo, un popolo progressista, Giuseppe. Io non dico però Crumiro, né meno male, tantomeno meno male, inossidabile, meno male. Dico un po' capriccioso Cruciani. Forse lei ci ha un po' azzeccato, c'è una punta di bastian contrarismo, si dice così, Luca? Sì. Però io sono convinto di quello che faccio e dunque penso che in generale penso delle cose sullo sciopero, però non è il caso qui di metterle nel mezzo del calderone della discussione, perché non gliene frega niente nessuno cosa penso io dello sciopero e di questo mezzo di protesta. Non è questo l'importante, ma è soprattutto per quello che non sciopero. Non penso che ci siano dei motivi così gravi per scioperare, poi se vogliamo andare nel dettaglio, e sono gli stessi motivi esposti prima da Antonio Polito, il direttore del Riformista, quando è stato in collegamento con noi. Caro Pino, la ringrazio e continua a seguirci. Caro Cruciani, anche ti ringrazio, ti auguro buone cose, stai un po' più a Roma. Mi pare molto difficile. Succederà a luglio. Però ti manca, di la verità. No. Sei diventato... Mamma mia. Grazie. Ciao! Allora, Telese, che tragedia. Che bello, vedi, sono voi due i più affezionati lettori, sono di sinistra. Lettori, cioè, ascoltatori. Il sado crucianismo. Ascoltarti che strapazzi, che esalti lo sciopero e farli male di chi manifesta e... È un'esperienza formativa. Collegamento con Mario Borghezio. Buonasera e buona Padania. Aridaglie questo buona Padania. Lei ormai un suo... Mi vuole spiegare quando è nata questa cosa di buona Padania ogni volta? Ma guardi, quando non è nata Borghezio? Io. Quello che le posso dire è che nella navicella del Parlamento Europeo io continuo a essere indicato come presidente del governo provvisorio della Padania. Addirittura nella navicella del Parlamento Europeo. Telese, ti rendi conto? Sì, certo. E sono preoccupato per chi ha fatto la navicella, con tutta la simpatia per Borghezio. E beh, hanno scritto quello che gli ho mandato io. Ah, ecco, quindi lei li ha ingannati. Li ha un po' ingannati. No, non li ho ingannati. E come io non li ha ingannati? Non ho mai dato le dimissioni. Vabbè, ma non esiste. Ma non è stato il sono comportato da italiano. Ma non esiste questo governo provvisorio della Padania. Ma proprio per quello è importante che venga sottolineata. Beh, allora così se la bevono. Se la bevono in questo modo. Non ne ho nessun'altra. Ho capito, ma al Parlamento Europeo se la bevono tutta. Nessuno mi ha contestato fino adesso. Sono lì dal 2001. In 9 anni non ho avuto su questo alcuna. Telese, facciamo una comunicazione al Parlamento Europeo dicendo che si sono bevuti una bufala di... Volevo sapere se hai ammesso che i suoi trascorsi giovanili in Giovane Europa, Borghezio. Ma io non li ho mai nascosti e ne sono direi orgoglioso, perché è stata una grande scuola di volontariato politico, di disinteressato, perché certamente in quelle organizzazioni giovanili non si brigava per avere il posto in qualche lista o magari un posto di sottogoverno o un impiego. si militava, no, no, si non, faceva non propaganda, nel rispetto tra l'altro delle regole, quindi perché, non abbiamo mai combinato niente di grave. Perché gli hai fatto questa domanda, Luca? No, perché gira su internet, lui lo sa sicuramente perché Borghezio è sempre attento a tutto, gira un filmino in cui lui fa una conferenza con una serie di gruppi neofascisti, credo in Francia. In Francia, sì. No, è Nisa Rebella, è un gruppo autonomista. Un attimo, Borghezio, un attimo. Borghezio, un attimo. Telese, qual era la questione? No, nulla, mi aveva colpito questa cosa, perché siccome conosco bene Borghezio, mi è anche simpatico, mi aveva colpito poi scoprirlo che diceva dovete infiltrarvi, usare, insomma, per no, io non ho usato questa espressione, mi sono state attribuite, io ho detto dovete continuare ad entrare o creare movimenti autonomisti, continuare su questa linea, io li incoraggio e prendo le mie vacanze vicino a Nizza e sarò presente, continuerò a dare consigli, sono tra l'altro però quello era, in stretto contatto con i giovani padani, perché più o meno la pensano come noi. Ma era un congresso, non erano autonomisti loro, erano neofascisti. Si chiama Nissa Rebella, vuole l'autonomia del nizzardo, vuole la lingua nizzarda insegnata nelle scuole. È chiaro che sono di destra, ma sono autonomisti. Va bene. E non hanno niente a che fare con i partiti nazionalisti tipo Front National o gli altri partiti dell'estrema destra francese. Appartengono al gruppo degli identitari francesi che io sostengo, frequento e invito ad andare avanti in questa direzione. Senta, Borghezio. Ma anche molti di noi nella Lega siamo arrivati dalla destra. Però oggi siamo autonomisti, io poi sono indipendentista, si figuri. Figuriamoci. Senta, a proposito di indipendentismo, ma lei fa il tifo domenica per la finale del mondiale per qualcuno, per la Spagna, per l'Olanda, se ne frega? Ma direi che mi ha impressionato molto la Spagna nell'ultima partita a cui io parte sono riuscito ad assistere. Quindi direi tendenzialmente verso ha visto la Spagna. Però la Spagna ci sono un sacco di catalani. In finale due squadre europee. Quello anch'io. Perché io sono europeista. Contro il superstato europeo, ma a favore dell'Europa, mito dell'Europa delle regioni, e non per nulla vengo dalla giovane Europa. Si figuri. Senta, Borghezio, sai che anch'io, al contrario di Telese, penso, sono contento di una finale europea, perché insomma, ci hanno fatto due palle così con questa storia del Sudafrica, post-apartheid, il mondiale che si deve allargare. Poi io, a proposito di Sudafrica, io sono un convinto sostenitore di che cosa? Contrastatore del razzismo antibianco che dilaga nello Zimbabwe e in Sudafrica. Il Sudafrica dovrebbe essere cacciato Borghezio, dalle nazioni civili, perché lì no, non mi scusi un attimo, sta cosa i bianchi. Aspetti un attimo, lei cosa ha detto? Il Sudafrica, mi ripete un attimo. Io sono l'unico Parlamento europeo che leva la voce contro il razzismo antibianco che sta dilagando nei paesi africani di questi gerarchi sanguinari e trallazzatori. Ho capito, ma lei dice alla fame, d'accordo, e per motivi politici scatenano i peggiori odi contro i bianchi, contro i faccenderos, anche ci sono anche dei nostri agricoltori. No, ma quello in Zimbabwe. Però lei mi ha detto una cosa prima, lei mi ha detto una cosa prima, caccerebbe il Sudafrica dalle nazioni civili, così ha detto? Sì, questa è un'affermazione un po' apodittica, però insomma, questo lei mi ha detto. Una bella condanna morale, l'ONU e tutte queste associazioni che un giorno sì e l'altro pure ci parlano del razzismo contro i neri dovrebbero anche ricordarsi che c'è un razzismo contro i bianchi. Dunque i bianchi... È vero, come è vero che c'è uno che è dovuto andare in Canada chiedendo asilo politico perché era perseguitato in Sudafrica e in Zimbabwe la situazione è ancora peggiore. Io sono stato l'unico politico che a Natale ha telefonato all'ambasciata, all'annunciatura apostolica dello Zimbabwe per sapere se i nostri potevano andare a messa e fare la messa di Natale. Risposta, sono spariti tutti, ambasciatore, nunzio, e hanno lasciato i nostri soli soletti. E la messa di Natale non l'hanno potuta fare, Borghezio, perché avevano paura di essere aggrediti. Senta, Borghezio, questa è la realtà che nessuno dice. Ho capito. Ma Borghezio ha l'abitudine di dire le cose che gli altri non dicono. No, ma lasciamo perdere lo Zimbabwe, però voglio dire, secondo lei è stato sbagliato dare i mondiali al Sudafrica? No, io dico... Lei se l'è presa anche col Sudafrica, dobbiamo però confondere le nazioni con i loro governi. E quindi bene andare in Sudafrica, che è una nazione simbolo, è una nazione guida. Ma lei mi ha appena detto che il governo... Però una bella condanna della politica aggressiva del partito di maggioranza e soprattutto delle organizzazioni giovanili che scatenano odio e caccia al bianco, questo bisognerebbe farlo, perché lì ormai non c'è più nessun bianco. Senta un attimo, i neri, ci sono i neri che danno la caccia ai bianchi, ma non si può dire la sinistra antirazzista di questo razzismo non si occupa mai. Però c'è Borghezio che lo fa. Senta Borghezio, ma per cui lei, se ci fosse stato un africano in finale, sarebbe stato scontento? Meglio se di no. L'Africa del Sud? No, un'africana in finale, non le sarebbe piaciuto un'africana? Nessun problema, certo avrei preferito ci fosse stato un boero, perché questi hanno portato, non colonizzato, ma sono arrivati in terre alla fine dell'Ottocento, nelle quali non c'era nessuno, erano disabitate, sono africani. I boeri africaner sono africani come Mandela. Senta Borghezio, però io ho sentito diversi esponenti di quella comunità africaner, boere, dire... Tipo Terre Blanche. No, ma i suoi eredi, compianto, diciamo. Lei lo compiange Terre Blanche? Sì, perché è stato un eroe del patriottismo africaner. Un eroe, un grande eroe. Un eroe indimenticabile. Io l'ho celebrato al Parlamento Europeo. Telese, aiutami. No, dicevo che Borghezio è in palla stasera, sembra un po' Invictus al contrario, no? Cioè Clint Eastwood dell'uomo della destra che scopre Mandela e lui si infiamma per gli africani, lo trovo fantastico. Senta Borghezio, un'altra cosa, ma sì. dicono queste piccole comunità bianche, oranie, eccetera, che... il calcio è uno sport dei neri, cioè calcio è uno sport per poveracci. Indubbiamente i neri lo giocano molto bene, come sono bravi nella corsa. Uno sport di fannulloni, dicono, uno sport di fannulloni, di neri fannulloni. Del calcio è lo sport, diciamo, degli atleti, e quindi se il nero gioca bene è un calciatore che gioca bene. Quello che però a me non va è che paesi come la Francia presentino una nazionale tutta di gente che non appartiene all'etnia francese. E dunque il fatto che la Francia sia stata eliminata per lei è una gioia immensa. Ha detto molto bene Marine Le Pen, che ha detto: non tiferò per questa nazionale francese perché non mi riconosco in questa nazionale. Io la penserei esattamente come lei. E l'Olanda con meno giocatori di colore le piace rispetto all'Olanda del passato? Ma io penso che sia un po' lo specchio dell'attuale situazione dell'Olanda, non c'è niente di male se ci sono dei giocatori di colore. No, ma ce ne sono meno che rispetto al passato, insomma, questa Olanda un po' più bianca, le piace? Ma a me piace l'Olanda che vota per i leader che vogliono mettere regole anche all'immigrazione. Senta, comunque viva sempre Terre Blanche, no? Sì, certo, perché è un personaggio poetico, è un personaggio... No, un po' da leggenda, che mi ricorda le mie letture giovanili dell'Intrepido, eccetera. Sono questi personaggi, adesso non si offrono più questi modelli di uomini coraggiosi che vanno anche un po' controcorrente, che rappresentano un'idea, alzano una bandiera. Vabbè, ma scusa, si parla di Garibaldi, ma Garibaldi era un uomo come questo. Ho capito, no? Ma Terre Blanche era favorevole all'apartheid, Borghezio? No, Terre Blanche difendeva i diritti degli africani. No, era anche favorevole all'apartheid, diciamo. Comunque, vabbè, un non attimo. Credo, ma come non credo? È così. Un attimo solo, Borghezio. Lei dov'è? A Strasburgo? Dove si trova? Bruxelles? Guardi, l'apartheid, secondo me, l'hanno voluta soprattutto quelli che volevano spogliare il Sudafrica delle sue risorse minerarie, eccetera. Quindi è stato inventato dai politici che stavano dietro alle grandi multinazionali. Vabbè. Che un po' schifosamente hanno. Ma lei non lo rimpiange? Prima lo facevano gli europei, poi gli americani li hanno cacciati via, adesso ci sono i cinesi. Quello che rimane è un'Africa devastata da odi tribali. Senta, e ma lei, chi li mette sono i poveri, ho i capito, poveri africani. Ma lei non è che rimpiange l'apartheid, no? No, secondo me la regola giusta era quella del colonialismo dolce dell'Italia, che si è comportata bene, ha lasciato strade, ponti. Andiamo, cioè, meglio il colonialismo, scusi un attimo, Borghezio, meglio il colonialismo di siamo comportati come sempre generosamente. Ok, meglio il colonialismo di quest'Africa qui. Ma quello italiano è stata un'epopea. Un'epopea di civiltà. Viva il colonialismo italiano. Magari anche con qualche pagina non bellissima. però basta andare alla Smara e vedere gli edifici storici che ha lasciato il nostro paese, Certo. Oltre alle strade, eccetera. Siamo qui, 20 e 4 minuti, 800 24 00 24, sempre in collegamento con Porretta Terme, con l'onorevole Borghezio. Quando inizia il comizio, Borghezio? Appena verso le 20:30, fra una mezz'oretta. C'è tempo. Quanta gente c'è? Non lo so, perché io sono alle porte del paese, non sono. Ci siamo fermati per fare la trasmissione. Ah, ho capito. Ma vada avanti pure, non c'è problema. Tanto non penso che guida lei, no, la macchina. No, però è un percorso un po' collinare, abbiamo timore che magari qualche zona collinare non consenta una buona ricezione. Beh, lei è molto gentile, altri suoi colleghi non si fanno. Hai capito, Telese? Insomma, lo fa apposta per noi, per essere in collegamento con noi. Io ci tengo, perché questa è una trasmissione libera in cui si può parlare liberamente e non mi tappate la bocca come fanno altri. Telese? Sono d'accordo su questo. Ogni tanto possiamo essere d'accordo anche io e Borghezio sul colonialismo dolce. Mi colpisce che sì, c'è tutto, li abbiamo solo gasati, lo diceva uno come Montanelli quando era ancora fascista, quindi non è una cattiveria della sinistra. Però anche il Sudafrica, che deve andare fuori dal consesso delle nazioni civili, questo è forte di Borghezio. Beh, è un po' forte, diciamo che una bella botta gli starebbe bene. perché proprio una nazione che nasce dalla lotta contro il razzismo non può alimentare il razzismo al contrario. Senta, dovrebbero essere vaccinati. Borghezio, al di là del suo elogio di Terre Blanche, eccetera, eccetera, ma sì, questa storia che ho letto degli UFO, lei è diventato. Questo è interessante. Mi è diventato un appassionato di UFO, ma com'è possibile? Dunque, intanto va detta una cosa, io l'ho riconosciuta, direi onestamente, nella conferenza stampa. Io umilmente quale sto cercando stampa? Di proseguire l'opera di qualcuno che ne sa molto più di me, e chi ed sarebbe? È il professor Tullio Regge, premio Nobel, che quindi nel 93 fece una prima relazione in appoggio a una risoluzione, udite udite, del socialista Elio Di Rupo. Perché la prima iniziativa nasce dai socialisti. Però belli. Lasciamo perdere le cose storiche. Perché lei è convinto che si debba indagare o si debbano spendere dei quattrini sugli UFO? No, non è che si debba spendere molti quattrini, perché la prima cosa che io chiedo è di togliere la secretazione di tutta la documentazione che gli stati hanno, i governi hanno. Perché se non c'è niente, perché devono tenerli segreti? E gli scienziati, uno di loro è venuto con me a Strasburgo a sostenere questa tesi, dicono che questi dati sono utilissimi per la scienza. Ma lei di vogliono cosa è convinto? Per misura. Ecco, ma lei di cosa è convinto, Borghezio? Che esistano? Io sono convinto che quando si nascondono le cose è interessante da vedere cosa c'è. Ok, d'accordo, ma al di là di questo, lei è convinto che esistano davvero extraterrestri, UFO? Io sono più o meno sulle posizioni dello scienziato che è venuto con me, il professor Teodorani, il quale dice: oggi noi non abbiamo la prova provata dell'esistenza di altri esseri fuori dal nostro pianeta, però non abbiamo neanche la prova contraria, e quindi è interessante studiare scientificamente quel 10% circa di casi che non sono spiegabili. Il 90% sono baggianate oppure sono fenomeni che sono creati di carattere ottico, di carattere fisico, spiegabili scientificamente, ma circa un 10% dei casi da molti decenni registrati dai governi, da piloti. Abbiamo avuto in trasmissione a Radio Panaria un ex pilota dell'Italia che dice: io ho fatto una relazione, però questa nel sito del Ministero della Via non c'è. E quindi evidentemente è stato censurato. Vabbè, insomma, lei però dentro di sé è convinto dell'esistenza degli UFO, mi dica la verità. Io sono convinto che molto probabilmente esistano vite negli ma altri. Ma perché dovrebbero tenerlo posti, nascosto? Molto probabilmente. Perché dovrebbero tenerlo nascosto, dice Telese? Lo tengono nascosto, le motivazioni sono varie. Sicuramente per motivi legati a strategia, per coprire eventuali esperimenti, perché una parte di questi si riferiscono ad esperimenti. Questa segretazione risale naturalmente al periodo della guerra fredda, agli anni 50, quando si sono cominciati a individuare questi oggetti non identificati. Borghezio, senta Telese che le dice. No, che in lei c'è un po' la cultura dell'intrepido, gli scienziati cattivi che fanno gli esperimenti riescono a tenere un segreto in tutto il mondo, tenere nascosti gli UFO. Ma la cosa... no, io dico un'altra cosa. Tengono nascosti i dati scientifici, i dati dei rilevamenti, e questo insospettisce e incuriosisce gli scienziati, che dicono: ma perché non possiamo studiarli? Sono dati matematici, sono dati numerici. Però Borghezio, mi faccia capire una cosa: è un po' curioso che lei a un certo punto venga come dire folgorato dopo tanti anni di attività parlamentare, soprattutto in Europa, sulla via degli UFO. Come mai questa sua passione che all'improvviso esplode? Mi è stato suggerito da un giornalista specializzato nell'argomento, il giornalista Liscioni, che da anni si occupa di questo e mi ha messo in contatto anche con questi scienziati che... E poi devo dire perché lei da parlamentare la relazione del professor Regge. Io ho parlato col professor Regge, il quale mi ha incoraggiato ad andare avanti da una posizione ovviamente scientifica e scettica. Però mi scusi, Regge, professor Regge, professor Tullio Regge, sì, professor Tullio Regge diceva col professor Tullio Regge, autore di questa relazione del 93. Però il professor Regge, il quale non crede all'esistenza di altri mondi o di altri degli alieni, ma dice è opportuno creare un osservatorio. È lui che ha lanciato la proposta. Ho capito, però creare professor... un osservatorio per studiare questi fenomeni. Scusi un attimo, Borghezio, la legge diceva anche che il pericolo non è rappresentato dagli alieni, bensì da umani male informati e molto fantasiosi e da uomini politici. È quello che abbiamo detto noi. E da uomini europeo. Politici che non si rendono conto dei problemi che sorgono da un'opinione pubblica fuori controllo. Sbaragliare il campo da tutti questi ciarlatani che dicono di aver incontrato ET nel giardino di casa. Ma restano un 10% di situazioni e di avvistamenti che non sono spiegabili scientificamente. Su questi gli scienziati hanno il diritto di andare a fondo. Ma la Lega cosa? La Lega che ci azzecca con gli UFO? Ma sa, la Lega è un movimento politico in cui ovviamente siamo liberi su questi argomenti di prendere le posizioni che vogliamo. Io parlo a nome mio personale, ma le posso assicurare. Anche Bossi è interessato? Bossi è interessato? Molti simpatizzanti a Lega di Radio Padania, ma io sto ricevendo. Guardi che la mia conferenza stampa censurata dalla grande stampa italiana è andata sulla Associated Press. Insomma. Con doppia citazione. Senta, Borghezio, ma voglio dire, Bossi ci ha parlato con Bossi di questa storia degli UFO, no? No, è piuttosto impegnato con altre cose. Non mi sa che se la sente, parlare degli UFO le dà un calcio nel sedere, secondo me. Si occupi di cose più interessanti. Il segretario è una persona liberale da questo punto di vista. E poi guardi, la presenza, l'eventuale arrivo degli alieni sarebbe utilissimo. In che senso? Come ho detto in conferenza stampa, perché riuscirebbe a farci capire, forse gli alieni riuscirebbero a farci capire che cos'è e che cosa vuole l'Unione Europea. Noi in 10 anni non siamo ancora riusciti a capirlo bene. Vabbè, ho capito, lei è al Parlamento Europeo, se non l'ha capito lei, Borghezio. No, guardi, che cosa in realtà esprima soprattutto il diritto europeo, la giurisprudenza europea, quella che vuole toglierci persino la Nutella. Guardi, forse solo gli alieni riescono a spiegarci il burocratese europeo, al cui confronto quello di Roma è genuino, è acqua limpida. Il centralismo di Roma fa ridere. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24. Telese, dimmi, Luca. Ho visto che non hai battuto ciglio quando... C'è ancora Borghezio? Sì, come no, è sempre... Parlava della lingua mittarda, ma tu sai esattamente dove si trova la mittardia? No, non lo so. Ah no, e quindi abbiamo fatto dei finti... Come... Dov'è? Ce lo facciamo spiegare. La lingua mittarda? Il popolo mittardo. Dov'è il popolo mittardo? Borghezio, forse diceva Nizzardo, no mittardo? Nizzardo. Nizza Rebella. Ah, Nizzardo. Sono l'autonomismo Nizzardo, bene. Ma non sono italiani? No, sono nizzardi e quindi... loro rivendicano i diritti di autonomia nei confronti di uno Stato, quello francese, molto centralista. Al confronto il nostro è un centralismo bonario e quindi sostengono con forza i diritti della loro autonomia, della loro identità anche linguistica regionale. Sono dei regionalisti molto autonomisti. Senta Borghezio, ma al di là di queste storie degli UFO eccetera, Teresa, vogliamo fare qualche domanda sulla Lega di oggi, su quello che sta succedendo nella Lega? Insomma, è lì un ufologo. sarebbe utilissimo. Beh, questo che significa che un ufologo sarebbe utilissimo? No, è una battuta, nel senso di dire che da quello che emerge da articoli, dal gossip politico, non si riesce a capire nulla. Anche perché io so benissimo che non c'è molto da capire. Insomma. Lei dice, lei dice. Non credo che ci sia praticamente nulla di quello che... Ma lei Sobranker l'avrebbe fatto? Emergere. Sobranker l'avrebbe fatto, ministro? Ma sa, Branker sicuramente è un uomo di esperienza, era già un sottosegretario, però la scelta di collocarlo in questo momento, cioè nel momento in cui è sub iudice, in una posizione in cui ovviamente avrebbe potuto utilizzare lo strumento normativo per sottrarsi al giudizio, direi che è quantomeno una inopportunità e uno sgarbo nei confronti del Presidente della Repubblica. Senta, Borghezio, è una persona attenta a queste cose e fa bene a esserlo. Allora, io direi di concludere con Borghezio, così lo lasciamo al suo comizio a Porretta Terme. Grazie anche della pubblicità. Del comizio, tanto... Certo, no, perché lo merita, perché sono che feste popolari feste. Ormai la vecchia sinistra non fa più e le veramente ogni tanto le feste ci sono, la festa democratica c'è. Pure Telese lo boicottano alla festa democratica perché ha parlato male di Bersani, si rende conto? ormai ce ne vedono la festa colori. Della Lega a parlare male di Bossi. Perché non lo invitate alle feste della Lega, Telese? Lei è sempre ospite a Tetri. Lei è sempre ospite. Peccato non esserci sentiti prima, perché qui ci sarebbe stato bene anche una intervista. Comunque, quando vuol venire alle feste della Lega, venga volentieri. Caro Borghezio, il calendario sulla Padania, io ne faccio 3 o 4 per settimana. Ma Borghezio, lei è ospite sempre a Tetris da Telese, ricambi, no? Ma io sono più che disponibile, ma le ripeto che non ci sono problemi, può andarci anche senza il mio avallo. Sono feste aperte, non abbiamo niente da dire. Sono occasione di incontro popolare. Certamente un sei stato a casa di Borghezio. Ha detto come Telese darebbe meglio. Sono rimasto molto colpito dalla sezione della Lega Torino San Salvario, che praticamente è una specie di sportello sociale. So che Borghezio lo conosce bene, fanno pratiche previdenziali, fanno tutto il contrario di quello che si può pensare con gli stereotipi. Quindi è vero, Borghezio, è stupefacente. Sì, che fa della Lega, fa un'assistenza a 360 gradi, extracomunitari compresi. E ci sono gli extracomunitari che vogliono iscriversi, addirittura. Capito? Sì, è verissimo. Vabbè. Ma quando io ero sottosegretario a Porta Palazzo venivano da me per avere informazioni sui permessi di soggiorno. Addirittura, Borghezio? Sì, sì. Io sono stato alla giustizia al primo governo Berlusconi. Sì. E avevo un ufficio in via Cottolengo nel cuore del quartiere di Porta Palazzo e venivano anche loro. Senta Borghezio, ma Balotelli in nazionale, lei come ce lo vede? Né bene né male, io non sono un esperto di calcio, se gioca bene ci deve stare. Cioè, non perché è nero non va però bene. Però a me è più simpatico Milanesio. Milanesio chi è? È quello che dicesse al momento del canto, dicesse Roma ladrona o qualcosa del genere. Marchisio, che milanesio. Marchisio, abbia pazienza. Io non sono un esperto di calcio, l'ho premesso. Senta, però un bel cognome torinese. A lei è piaciuto, a parte che lui ha smentito, non cantava Roma ladrona. Ma qui sa, se uno vuol far carriera in Italia, certe cose è meglio che se le tenga per sé. E dunque, lei si è innamorato di Marchisio? Ma mi è sembrato un ragazzo simpatico, una bella butata, ecco. Lui non è neanche leghista, però uno sfottò simpatico. Ma chi di noi al momento, noi che abbiamo fatto il servizio militare, pochi fra i deputati italiani, al momento del giuramento non ha detto quell'altra frase? E che deve aver detto al momento del giuramento? L'abbiamo detto tutti, al momento di giurare, lo giuro, e tutti eravamo ragazzi, avevamo 20 anni e abbiamo detto ce l'ho duro. Così eravamo già leghisti senza saperlo. Io non l'ho detto, così si diceva, Telese non l'ha fatto. Ma sarò finito in un battaglione strano, che vuole che le dica? Com'era la cosa? Lo giuro, eravamo, eravamo 4-5 piemontesi, un battaglione di pugliesi molto bravi, gente sana che veniva dall'agricoltura. E com'era il giuramento? No? Incontrato nel mondo politico. Ma com'era il giuramento? Me lo ripeto un attimo, Borghezio. Beh, tutti, ma mica solo io. Lo so, com'era? Com'era? Me lo ricordi? Al momento di dire lo giuro, molti hanno detto ce lo duro. Ma com'era? Lo giuro, me lo ripeto un attimo. Nil sub sole novi. No, ho capito, niente, niente di nuovo. Devi preparare con la formula. Com'era? Soldato Borghezio, la giuri di difendere la patria. Dicevano tutta una lunga formula e poi c'era il giuramento. Soldato Borghezio, soldato Borghezio. È chiaro che noi col cuore abbiamo giurato. No, ho capito. Borghezio, aspetti un attimo, io e Telesi ripetiamo la formula. Com'è, Luca? Soldato Borghezio, giuri tu di difendere la patria. La patria si deve sempre difendere. Beh, risponda, Borghezio, di difendere la patria padana. Ma deve continuare, con grande entusiasmo, mamma mia, anche nonostante i miei ormai anni. Ho capito, diciamo, Borghezio, deve continuare un attimo, Telese stava iniziando la formula, Telese. Soldato Borghezio, giura lei di difendere la patria? Lo giuro. Vedi questi leghisti, c'hanno il doppio petto. La formula, lo giuro, ce l'ho duro. Lo giuro. L'ho già giurato e lo giuro. Ho capito, ma poi lei... Siamo patrioti, noi leghisti. In realtà diceva ce l'ho duro. Siamo i figli dei figli di quelli che stavano nelle trincee del 14-18, altro che balle. Senta, Borghese, mi canti per concludere, mi canti l'inno italiano, la prego. L'inno italiano. Io sono stonato, non vorrei creare o io incrinare i buoni rapporti con i tessuti in Europa col Presidente della Repubblica. No, mica d'Italia. Mi viene meglio il vapensiero però, ma canto male anche il vapensiero. Inizi un po' la prima strofa dei Fratelli d'Italia. Borghezio, vada. È un esperimento. Ma devo dire che l'attacco è simpatico. Aspetti un attimo. L'attacco è simpatico e anche esaltante. Aspetti un attimo. L'importante è essere patriota. Aspetti un attimo, Borghezio. Vada, Borghezio. Vada, non chiacchieri. Un po' legato al Risorgimento, eccetera. Vada, canti. Però se c'è da combattere per difendere la patria, io ci sono. Quale patria? Quale patria? La nostra, la terra dei padri. Cioè? La patria è la terra dei padri. L'Italia. Perché ovviamente per gli italiani è la terra dei padri. E fanno bene a difenderla. E io rispetto chi è patriota e si sente Borghezio, patriota e si sente italiano. Una strofa, la prima strofa. La prima strofa, non me la è simpatica quella dello schiava di Roma, quella parte lì. No, niente, quella sarebbe niente. Da eliminare. Sarebbe da eliminare, eh. Sì, quella è offensiva. Però vada, cerchi di seguire. Ma io seguo. No, cerchi di seguire lei cantando. Ma io canto male. Ci provi. Non, le ripeto, non voglio offendere l'inno nazionale italiano cantandolo male. Lo canta bene. Vada, non ci offendiamo. Ma si offende l'autorità, il Presidente della Repubblica, eccetera. Ripeto, io ho un rapporto con la Padania, direi quasi d'accordo con la Padania che ha scritto che Mameli era un ladro. Il Presidente della Repubblica che considero un grande galantuomo. Ho capito, questo l'abbiamo capito. Telese, che volevi dire su... No, sono contento, Borghezio non è d'accordo con la Padania che ha scritto un titolone di prima, Mameli era un ladro. Non ho sentito bene. La Padania ha scritto in un titolone di prima Mameli era un ladro. Ma lì sono cose che si scrivono sui giornali, i titoli. Lei è un giornalista, sa benissimo che i titoli dei giornali sono fatti un po' così per vendere le copie. Io sono Mameli, devo dire, non ce l'ho né in simpatia né in antipatia. Sarà stata una bravissima persona. Ma quelli che hanno fatto il Risorgimento erano patrioti, buona fede. Solo che naturalmente... Questo stato unitario centralista è riuscito male. Era meglio Cataneo, era meglio nei federalisti. Andava fatto meglio con maggiore rispetto dell'identità, perché abbiamo culture diverse. Borghezio, la interrompo perché sennò lei perde la voce e deve iniziare il comizio. Grazie. Grazie a voi, buona Padania a tutti. E basta con sta Padania, in apertura e in conclusione non ne posso più. Non esiste la Padania, Borghezio, non esiste. Siamo qui 20:33 800 24 00 24 per chiamarci. Francesco da Milano, buonasera. Francesco, giovinezza, mi sente? Giovinezza, primavera di bellezza, mi viene da dire. Addirittura. Cioè, possiamo dire una cosa, Cruciani, possiamo dirla. Ma dica, io penso che lei dica. Sarà d'accordo con noi, suo pubblico prevalentemente di centro-sinistra. Possiamo dire che Borghezio ha detto una serie di cazzate, una più grossa dell'altra. Sì, lo possiamo dire. Sì. Lo possiamo dire. Che noi non riconoscersi nella nazionale francese perché sono neri e non sono di etnia francese è una stronzata, Cruciani. È una stronzata. Ecco, ma insomma, perché sennò ci rovesciate addosso di tutto, come se noi fossimo lì a berci tutto. Guardate che non beviamo proprio tutto. Francesco, lei sa benissimo, noi non ci beviamo lei, tutto. No, bisogna su queste cose, Francesco. Poi lei va benissimo, può dire che sono stronzate, io le dico sì, sono stronzate. Cruciani, però, ripeto, bisogna usare anche il tasto della leggerezza su queste cose, il tasto della leggerezza, non lei, sempre lei quello dell'indignazione. Lei provi a pensare a una persona che ha un figlio adottato di colore, a sentire queste stronze. Sì, si arrabbierà con Borghezio, va bene, si arrabbierà con Borghezio. Allora facciamo una cosa diversa. Cosa dovremmo fare? Non dovremmo far parlare Borghezio? No, è la cosa peggiore, sarebbe la cosa peggiore quella. Lei lo faccia parlare, Cruciani, ma non tanto e solo sull'Inno d'Italia e sugli UFO. Lei prenda quel benedetto filmatino che gira in internet. Ma ne abbiamo parlato all'inizio, basta di questa storia, però Francesco, di questa storia di Borghezio con gli estremisti di destra in Francia. Ma ha fatto anche di peggio Borghezio. Non è una registrazione di una telefonata privata, è un filmato che gira in internet dove il signor Borghezio parla in pubblico a delle persone e viene fuori una posizione neonazista. Ma perché deve lui privare? Lui dice che sono autonomisti no, e non sono neonazisti. Lei lo provi a trasmetterlo al radio, provi ad ascoltarlo, Cruciani, se non l'ha ascoltato. Sì, no, l'ho ascoltato più volte, francamente. Mi sembra il solito Borghezio, non mi sembra così diverso dal Borghezio che conosciamo in quel filmato, insomma. Guardi che è Borghezio che usa lei, perché Borghezio viene lì, si fa prendere per i fondelli un po' di volte, però intanto le sue bombe le lancia. Ma e allora lancia le bombe, bisogna vedere come le lancia queste bombe. Non va bene. Se noi ci ironizziamo sopra, guardi che le lancia, ma vengono anche disinnescate le bombe, Voi fate il pieno di audience e lui vi ma usa. No, ma non c'entra niente adesso il piano di audience, qui non stiamo parlando di questo, Francesco. Per cui... Sì, però la cosa sulle persone di colore, Cruciani, no, cioè... A Borghezio non piace una nazionale in cui è una nazionale mista, è multiculturale, ma saranno affari suoi, è una stronzata secondo me, saranno è la sua posizione, cosa le devo dire? Ma non sono cagnolini, Cruciani, sono persone, non è una nazionale mista, la specie umana è una sola. Ma certo che è così, insomma, Francesco. Però bisogna aver letto qualcosa, insomma. Lo dica a Borghezio, non a me, io ho letto qualcosa. Lo dica a Borghezio. Lei a Borghezio, che ci parla spesso. No, guardi che Borghezio, tra l'altro, secondo me ha letto più di lei e di me messi insieme. Sì, vabbè, alcune cose le ha lette sicuro. Bisogna vedere cosa ha letto poi, naturalmente. Appunto, va bene, la saluto, buonasera. Grazie. Diego da Milano. Buonasera Cruciani. Dica. No, io chiamavo perché mi ha colpito molto l'intervento di Borghezio, perché io non sono leghista, ho delle posizioni abbastanza differenti, però mi sono trovato d'accordo invece su parecchi punti ed è quasi un peccato perché mi sembra che la Lega sia il più grosso spreco politico che l'Italia ha avuto in questi anni. Delle iniziative che potevano essere sensate, abbracciare, avere un consenso molto più ampio, messe in cacciara... fondamentalmente per problemi di comunicazione pessimi. È stato interessante la parte di Borghezio, come ha detto che l'Africa sarebbe meglio con un colonialismo morbido, una cosa che nessuno dice e invece è verissima, perché... Ma adesso non esageriamo, Diego, verissima. Ma lei si rende conto di cosa è passato all'Africa? È passato da colonialismo a un indipendentismo derivante dal no Diego è vero è vero che nessuno riflette sulle è saccheggiata dai già vero Diego nessuno delle peggiori schifezze però mi scusi Diego nessuno riflette abbastanza e quello è sicuro sul come dire sul ruolo nefasto di alcune leadership di colore comunque locali. Però insomma da qui a dire che era meglio il colonialismo dolce degli italiani, quando colonialismo dolce è una parola sbagliata, comunque di dolce non c'è niente, il passo è troppo lungo. Grazie. Luigi da Viterbo. Buonasera signor Cruciani. Dica. Guardi, francamente io a questo punto ho seguito da circa un'ora direttamente la trasmissione e posso dirvi a lei, dirle a lei e anche al signor Telese complimenti. Complimenti perché francamente con il presidente dell'entità geografica Padania, cui il professor Borghezio si professa, avete tenuto un comportamento che tutte le bombe che ha lanciato sono tutte bombe a salve, perché effettivamente avete contrattaccato in modo educato, formale e francamente intelligente. Vabbè. Infatti sono entrato così per fare un discorso un po' leggero, parlando di Paul. Lei lo conosce Paul, sì? Il polpo, e chi non lo conosce? Ecco, di conseguenza è questo. Francamente, ripeto, in questa ora che vi ho ascoltato, vi ripeto, vi faccio effettivamente, senza piaggeria, i veri complimenti, perché francamente con persone di quella, diciamo così, stazza, a livello anche di peso, francamente avete tenuto un comportamento veramente intelligente. Ma lei lo sa che il polpo è stato intervistato oggi, per finta, naturalmente, sulla prima pagina di Libero? No, ripeto, io lavoro, diciamo così, sono preoccupato sul lavoro, facevo l'idraulico e io... Luigi, ma sul polpo cosa ci voleva dire allora? Niente, che francamente a questo punto, sempre andando sul leggero, il presidente, mi sembra Zapatero, vero, della Spagna, ha detto che lo vorrebbe eventualmente così, sì, adottare e portarlo in Costa Blanca a fare una bella vacanza, che francamente sa, è sulla Ruhr, diciamo così, la zona industriale della Germania, è un po' freddo, fa anche, c'è anche molto inquinamento. Penso che sia bene in Spagna, faremo una petizione. Lei sa, Luigi, che oggi era il giorno delle previsioni del polpo e ha previsto la vittoria della Spagna e la vittoria della Germania nella finale del terzo posto. Va bene, Adriana Pordenone, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Io non ho ascoltato le ultime fasi della trasmissione, volevo riferirmi a due cose. Primo, non so se farei il suo mestiere, sinceramente, perché a volte questi conduttori di trasmissioni così in cui si ascolta il pubblico, poi in realtà il pubblico lo ascoltano poco o danno un colpo al cerchio, un colpo alla botte, insomma molto, non so, sono un po', non sono molto persuasa che questa sia la formula migliore, cioè o il pubblico lo si ascolta con un po' di rispetto e se no l'equilibrio credo che non ci sia. A chi si riferisce, mi scusi Adriana, non ho capito. No, ma anche a lei in questo caso, ma anche a qualcun altro. Senta, che magari su altre Adriana situazioni. Adriana, abbia pazienza, questa no, è aspetti, mi lasci no, parlare. No, mi scusi un attimo, questa qua è la trasmissione radiofonica, penso, in Italia, che dà più spazio alla voce degli ascoltatori. Per no, cui, spazio, insomma, però con questa cantilena, insomma, direi che è ora di chiuderla, perché è veramente una cosa ridicola. Insomma, che cosa? Il pensare che diamo meno spazio o che addirittura a un certo punto togliamo la parola, certo che togliamo la parola, dopo 7 minuti di intervento si può anche togliere la parola a qualcuno. Che dopo lei può fare i commenti sopra. No, io non sto facendo nessun commento, dica quello che vuole. La seconda cosa che volevo dire, forse più rilevante, ecco, è questo discorso che lei ha sentito prima parlare della signora Luisa, sì, che avrebbe detto che Berlusconi... Beh, io guardi, non sono specialista di questo, però un mio amico tedesco che è psichiatra, sì, le prime volte che ha sentito Berlusconi, e mi assicuro che non lo capiva, sì, l'ha subito detto che aveva dei disturbi della personalità. Beh, quindi a voi non siete... Io credo che ci sia molto su questo fronte che non viene detto e che invece i professionisti sanno benissimo. Dunque, secondo lei, Adriana, mi scusi, secondo quello che le ha detto questo suo amico psichiatra tedesco, secondo l'idea che lei si è fatta, Berlusconi avrebbe bisogno di un medico. È bisogno di un medico, ma poi lo disse sua moglie stessa, quindi credo che non, sì, di non essere la sola. Va bene, ho capito. Per cui io credo, io che ripeto, l'ultima frontiera, una persona che ha disturbi della personalità. Benissimo, l'ultima frontiera, io ho scoperto in questi due giorni che l'ultima frontiera dell'antiberlusconismo è la psichiatria. Berlusconi ha bisogno di un dottore, ha bisogno di qualcuno che gli strizzi il cervello. Brunella da Milano, buonasera. Buonasera, senta Cruciani, la sento tutte le sere. Grazie. Spesso non sono d'accordo con lei, ma la reputo intelligente e libero. Però stasera devo dire che sono proprio delusa. Da che cosa? Da fatto che lei ha fatto la zanzara. Beh, appunto, perché, appunto perché sono libero di pensare diversamente dagli altri, ho fatto la zanzara. Sì, ho capito, però sono no, più deluso ancora di Polito. È l'unico ragionamento che conta è questo, cara signora. Sì, aspetti, vi faccia parlare un momentino. Sono molto più delusa di Polito, perché io sono molto vicina a Polito politicamente, e poi non ho capito perché Telese oggi praticamente la segue. No, io Telese oggi lavora, perché lo sciopero dei giornali era ieri, dunque Telese oggi lavora. Questa legge sulle intercettazioni telefoniche. Non avremmo saputo niente di Scajola. Ma le pare possibile? Senta, signora. Cruciani non è una persona intelligente, mica un cretino qualsiasi. Allora, anche questi politici, io non sono una forcaiola, se figuri sono una, credo di essere una riformista. E allora? Ecco, allora, sarebbe stato estremamente grave non conoscere il comportamento di questi politici. Questo ministro. Guardi che la vicenda di Scajola non aveva niente a che fare con un'inchiesta. Comunque, adesso, no, adesso è troppo. Intercettazioni telefoniche. Siamo qui per l'ultima parte della zanzara, Maurizio da Verona, 800 24 00 24. Prego Maurizio. Buonasera. Dica. Parliamo di sciopero. A che serve questo sciopero? Perché questo sciopero? Nel paese più libero che esiste. Perché scioperare? Maurizio, ce lo siamo domandati anche stasera. Lei pensa che non è un paese libero il nostro? No, io penso che sia un paese molto libero. Beh, insomma, adesso non esageriamo, è un paese libero come tutti, come gran parte dei paesi del mondo occidentale. Perfetto. E non solo. Allora, se questo siamo arrivati a dover fare una legge sulle pubblicazioni e quant'altro, la colpa di chi è? Non è certo mica di Berlusconi, la colpa è di quei giornalisti. Beh, i giornalisti hanno certamente le loro responsabilità. Moltissime responsabilità. Io non ho mai visto un giornalista in prima persona, non dico pagare, ma chiedere scusa pubblicamente, mai. I politici si giustificano, gli vogliono chiedere scusa ai politici, giornalisti mai, rovinano vite, famiglie, persone, senza mai chiedere scusa. Sì Maurizio, senza generalizzare, è accaduto quello che lei ci sta raccontando, è vero? Ma secondo lei non è così? Sì, sì, quante volte è così. Sono state pubblicate cose a pagine intere e poi un trafiletto, e il giornalista cosa fa lui? Lui fa il suo lavoro. Cosa fa? Va dal giudice, il giudice che deve attaccare qualcuno, gli passa la notizia, lui la pubblica. Stiamo scherzando. Maurizio, io sono d'accordo con lei, sono assolutamente d'accordo con lei. In tutto questo discorso degli ultimi mesi, quello che è mancato certamente è stato anche il mea culpa da parte di questa professione per quello che è accaduto negli ultimi 15 anni per la pubblicazione di cose che non andavano pubblicate. Eccetera, eccetera. Vuole aggiungere qualcosa? Molto, molto tranquillamente. Il politico pubblicamente si scusa, si dimette, fa quel fa il Beh, posto. Si scusa non troppo, comunque. Io non ho mai visto un giornalista pubblicamente, quando dice delle fesserie proprio, o delle sue idee, le trasforma in notizia. Lui molte volte i giornalisti trasformano le loro idee in notizia. E mi sembra assurdo. E poi parliamo di sciopero, cos'è lo sciopero? Sciopero è mettere a conoscenza l'opinione pubblica di un problema, giusto? Sì. Mi sembra normale che si sciopera qualcuno e il cittadino non può andare in pullman, in metropolitana. Abbiate il coraggio di fare sciopero e dire oggi sciopero degli aerei, non si paga l'aereo. Così si danneggia e si mette a conoscenza. Oggi sciopero degli autobus, non si pagano gli autobus. Oggi sciopero dell'informazione, non si paga. Beh, insomma, adesso lei sta ragionando su diversi modelli alternativi di sciopero che ci possono essere, e di questo naturalmente si può discutere. Antonio da Roma, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io volevo intervenire sulla questione dell'Aquila. Sì. Rimango sbalordito, perché tanta gente dovrebbe prendere l'autostrada e andare sino all'Aquila per vedere l'operato che questo governo comunque sia ha fatto. Perché tanta gente dice. C'è il centro storico che è ancora distrutto, ma forse uno preferisce ricostruire le case agli aquilani. Io ho un'esperienza diretta, perché ho una zia che fortunatamente un mese fa ha avuto fortunatamente casa dalla A alla Z in un quartiere che per esempio è stato ricostruito dal nulla. E tanta gente dovrebbe vedere queste cose. Ho capito, guardi Antonio, sentiamo molto male questa telefonata. Andiamo a Torino da Roberto. Luciani, volevo solo tornare un attimo sull'incidente di Barbato dell'altro giorno. Sì. Perché sono rimasto scioccato. L'altra mattina sentivo al telegiornale di Radio 24 la notizia che chi ha sferrato il pugno a Barbato, eccetera, eccetera, rischia una sospensione di 15 giorni. Però io mi domandavo, ma se io avessi preso a pugno una persona per strada, non mi sospendevano 15 giorni dal lavoro? E loro che sono parlamentari per un'aggressione... No, però mi scusi Roberto, sì. Ci sono due campi diversi, se vuole, due questioni diverse. Una riguarda una questione interna al Parlamento, come il Parlamento risolverà la questione, certo. Ci sono diverse sanzioni, e l'altro terreno, se vogliamo, è quello del penale, cioè può darsi che Barbato farà la sua denuncia e vedremo che seguito avrà questa denuncia. Secondo lei ci dovrebbe essere sanzioni pesanti da parte della Camera dei Deputati, questo intendo? Ma ci mancherebbe, c'è l'aggravante che deriva dal fatto che loro sono parlamentari, sono responsabili più degli altri, secondo me. Quindi in ogni caso, a parte l'esempio che dovrebbero dare, tutto quello che si vuole, però secondo me loro fanno un gesto che va, cioè ha fatto un gesto che secondo me va penalizzato con un aggravante. Secondo me anche l'espulsione, cioè l'espulsione non so se si può, ma 15 giorni di sospensione si dà a mio figlio che picchia il compagno di scuola, per dire. Sì, no, Roberto, bisogna anche vedere poi come verrà ricostruita la vicenda, c'è l'elemento della provocazione che certamente non giustifica la violenza, e il tipo di violenza che c'è stata, Barbato ci ha detto la sua, l'autore dello schiaffo del pugno dovrebbe essere l'onorevole Nola, questo si accerterà. Porterà immagino la sua versione, ci farà conoscere la sua versione, vedremo. Roberto, anche secondo me ci dovrebbe essere sanzioni severe, lei dice 15 giorni, non lo so. No, sono rimasto scioccato, 15 giorni di sospensione mi sembra nulla, comunque va bene così, cioè, se è questo, spero che Barbato faccia la sua denuncia e ci siano delle sanzioni più gravi. Anche lo stesso Barbato non ci va leggero con le parole, No, vabbè, ma l'altra parte che studiavo, che c'era libertà di parola in Parlamento e non ci poteva essere inquisiti per quello che si diceva in Parlamento all'epoca, adesso non so se sono cambiate le cose, lui può aver sbagliato offendendo, a questo punto si fa querela come tutti gli italiani. No, certo, certo. Si fa querela, non si prende a pugni, non si passa le mani, certo. Quello. Bene, Roberto, grazie. Nico, prego, Nico da Treviso. Pronto, mi sente? La sento, deve essere molto breve, Nico, perché ci abbiamo verso la conclusione. Buonasera, dica. Volevo solamente puntualizzare una cosa che ho sentito ieri sera. Le diatribe tra le varie da Dario e compagnia bella, quanto possono interessare alla gente? No, guardi, scusi, Nico, non abbiamo fatto sentire le diatribe tra le da Dario, era la manifestazione sulla libertà di stampa contro la legge Bavaglio, la cosiddetta legge Bavaglio, e la signora Daddario è stata aggredita verbalmente da una delle organizzatrici, punto. La cosa ha avuto un certo interesse dal punto di vista dell'opinione pubblica, dal punto di vista dei media, e abbiamo ritrasmesso quella scena che fino adesso non avevamo visto e soprattutto non avevamo sentito qui alla radio. La ringrazio. Dino da Rovigo, veloce, Dino. Sì, buonasera, io la chiamavo, mi sente? La sento. La chiamavo ieri sera, ascoltavo quella signora di Torino, signora Luisa, così. Sì. Ma questo è riferito non a lei, un po' a tutte le Luise d'Italia, diciamo, o i Luigi d'Italia, ecco. Lei parlava il discorso di Berlusconi, etichettandolo come un pazzo che ha bisogno di psichiatra, questo e quell'altro. Sì, sì. Ma io dico, stava scherzando, perché una persona o può essere una persona antipatica o no, ma voglio dire, cioè, guardi, scherzando. Dino, Loris da Pordenone, 20 secondi. Eccomi qui, buonasera e grazie per avermi dato voce. Volevo solo dire, in riferimento alla manifestazione degli aquilani succeduta a Roma, sì. Io come friulano mi sento un po' indignato di queste scenate. Le spiego un aneddoto molto velocemente. Io ho un nonno che è rimasto sotto le macerie e capisco cosa gli è successo all'Aquila. Ho uno zio che ha vissuto 2 anni in una roulotte e 6 anni in una baracca prima di farsi la propria casa con le proprie risorse, con i mutui, con le agevolazioni del caso. Io penso che questa gente sia o strumentalizzata o molto illusa. Loris, la devo fermare qui, magari riprendiamo questo discorso la prossima settimana, 18:30 alla Zanzara. Ciao. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio. una cosa. Non mi preoccupare. La Zanzara.